programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Dunque, avete visto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abemus papam, non abemus governum, ma un pezzettino di parlamentum. Da pochissimo ce l'abbiamo. Che settimana veramente è stata questa, come sempre. Voi sapete, è il mio appuntamento con voi, il vostro con me, per raccontarci le tante notizie che scorrono durante la settimana, dal sabato in cui ci lasciamo al sabato in cui ci ritroviamo. Questa è stata veramente concitata, un po' tutte le ultime settimane, possiamo dirlo, ma questa in modo particolare. Quindi vi dico da subito il numero verde per le vostre telefonate, per i vostri interventi sino alle 15 o poco prima, che è 800 24 00 24, numero verde, quindi gratuito, ma anche, vi dico sempre, ecologico, perché evitate di disperdere nell'ambiente le vostre energie, il vostro tempo, le vostre opinioni, le vostre riflessioni, i vostri neuroni anche. Convogliateli invece qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Vi dicevo che abbiamo questo pezzetto di Parlamento perché da poco, da meno di un'oretta, è stata eletta alla Camera, così un po' imprevedibilmente, Laura Boldrini come presidente. E, è stato un grandissimo entusiasmo e devo dire, Laura Boldrini del resto è una figura di altissimo profilo perché è stata per tanti anni portavoce dell'organizzazione dell'ONU per i rifugiati ed ha veramente passato una vita spesa a difendere i diritti umani. E se mi permettete, in modo molto sobrio, vorrei anche esprimere il mio di entusiasmo. Ecco, giusto così una nota per farvi sapere che sono particolarmente contenta di questa elezione. Speriamo, poi vediamo quanto durerà il governo e quanto Laura Boldrini potrà essere presidente della Camera. Insomma, non cominciamo a mettere le mani avanti. Invece, per quanto riguarda il Senato, riprenderanno le votazioni intorno alle 16.30. Ci sono in campo Grasso per il PD e Schifani per il PDL. Poi bisogna vedere l'ago della bilancia, il Movimento 5 Stelle, cosa farà? Come, insomma, vi ho detto parecchie cose già e diciamo, per quanto riguarda i vostri interventi, ovviamente siete sempre liberi e libere di dire quello che ritenete, di parlare della notizia che preferite, però forse possiamo dire che effettivamente per questa settimana i temi centrali sono il nuovo Papa, no, Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio di Buenos Aires. Anche lì una votazione per certi versi imprevedibile, forse per altri no, ma sicuramente nella sua celerità. Nessuno se l'aspettava così presto, al secondo giorno del conclave. Poi, naturalmente, l'impasse politica, anche se un primo tassello è stato messo, però poi bisogna vedere come si va avanti. Quindi questo altro argomento. E poi io direi senz'altro anche la questione dei Marò, che ha coinvolto molto le ascoltatrici e gli ascoltatori sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Poi, se ci sarà tempo, leggerò qualcuno dei messaggi a voce alta. Io me li sono già letti tutti e devo dire anche lì non mi aspettavo tutta questa fermezza nel dire, per la maggior parte di chi è intervenuto, che insomma è una questione di parola data, di onore, di prestigio del nostro paese. Vedremo cosa ne penserete voi. 800 24 00 24. Tra poco vi presenterò l'opinionista estemporaneo di oggi, ma prima, come sempre, il nostro rito. Che cos'è che anche questa settimana ci dimostra che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere sono un granché. Questa volta vi devo dire, senza andare a scomodare tutti i fatti di costume, le cose che cambiano, anche simboliche, metaforiche, eccetera, eccetera, diciamo pure sul tempo, sul meteo, molto banalmente devo dire che questa, che cavolo di primavera è? Sapete, uno si illude, vede i giorni di sole, temperature che salgono, invece no, avremo ancora freddo e sapete che è nevicato alle Eolie in Sicilia, temperature che sono scese a 5 gradi e anche meno. Questo ci dice che non ci sono più le mezze stagioni. Questa volta ci concentriamo sul meteo, ma a questo punto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, direi senz'altro di andarvi a presentare chi è l'opinionista estemporaneo di oggi. Massimo Franco. Buongiorno. Caro Massimo. Massimo, io devo dire, se mi permetti, con insomma una frase un po', diciamo, popolana, che con Massimo Franco, grande firma del Corriere della Sera, noi oggi prendiamo, diciamo, due piccioni con una fava, anche se ultimamente insomma, si parlava di gabbiani sui comignoli, perché Massimo Franco non solo è esegeta della politica italiana, ogni giorno praticamente scrive sul Corriere della Sera e ci spiega quali sono i retroscena, le vere intenzioni, al di là delle apparenze, delle movenze della politica, e dall'altra parte è giornalista di lungo corso che segue da tanto tempo le questioni questioni vaticane, sa quindi dirci anche sull'altro argomento dominante, insomma, quali sono le questioni salienti. E non per niente ha appena pubblicato un libro che aiuta, io direi senz'altro di leggerlo se volete capire un po' tutti questo lungo periodo dalla morte di Giovanni Paolo II sino alle dimissioni di Ratzinger, che ha caratterizzato la Chiesa e che l'ha portata a quello che dice il titolo, la crisi dell'impero Vaticano, appunto dalla morte di Giovanni Paolo II alle dimissioni di Benedetto XVI, perché la Chiesa è diventata il nuovo imputato globale. Pubblicato da Mondadori, un libro estremamente articolato ma che davvero ci spiega quali sono i tanti passaggi dietro alle cose, alle poche cose che noi, insomma, da comuni mortali sappiamo. Massimo Franco non è proprio un comune mortale, Massimo, da quello che ho detto, insomma. Io? Sono mortalissimo. Sei mortalissimo. Purtroppo, come tutti noi. Massimo, senti, ma questa sorpresa, non so se ti finisce la sorpresa, notato del Papa, poi ne parliamo subito, ma di Laura Boldrini, che come ti coglie? Ma mi coglie felicemente sorpreso, nel senso che mi pare un nome nuovo, un nome fresco, e mi pare anche che dal discorso che ha fatto abbia dimostrato di essere anche abile, perché ha fatto le citazioni giuste, ha richiamato il dovere del rispetto del Parlamento, della e questo in un momento in cui c'è questa grande ostilità nei confronti di tutto ciò che è istituzioni, mi sembra un buon segnale. Senti, ti voglio dire, proprio così per entrare un po' a sorpresa a mia volta, ma poi ritorniamo su questi temi. Secondo te, ti sto per fare una domanda un po' scabrosa, Massimo Franco, ma secondo te Maroni, da uomo a uomo, ti sembra che abbia il di dietro un po' largo? Secondo te? Non capisco cosa vuoi dire. Tu hai sentito che Bossi ha detto ieri, Maroni ha scoperto di avere il culo un po' largo per due poltrone. In questo senso. Sì, l'ha detto proprio, la sua frase. Ma sai, questo mi sembra una frase un po' da leghista, un'espressione leghista. Mi pare che sia molto difficile per la Lega usare termini che siano vagamente istituzionali. Per cui io ho l'impressione che il problema di Maroni non sia tanto quello dei doppi incarichi, ma che Maroni abbia in mano un partito che, nonostante le apparenze, è ancora spaccato in due tra la fase di Bossi e la sua fase, e che il risultato elettorale abbastanza deludente per la Lega, anzi direi disastroso per la Lega, ha accentuato. Quindi oggi in realtà stiamo vedendo un prolungamento dello scontro interno che è reso ancora più drammatico dal fatto che la Lega ha perso le elezioni. Quindi ci sarà un rimpallo di responsabilità tra Maroni e Bossi che renderà la Lega ancora di più un elemento di instabilità nel Parlamento. Perché Bossi l'ha detto in modo colorito, ma anche astioso evidentemente, dicendo che Maroni praticamente con questa frase che ti ho detto dovrebbe dimettersi almeno da segretario del partito, visto che è diventato governatore della regione Lombardia. Però Maroni ha risposto molto seccato: io ho già dato le mie dimissioni, non le ha respinte il partito e quindi io resto dove sono, insomma, sulle due. Beh, mi sembra che sia appunto la conferma di qualcosa che è ancora in fieri. Io ho anche un'altra sensazione, forse mi sbaglierò, che questa grande vittoria di potere che ha avuto la Lega ottenendo il governatorato della Lombardia potrebbe rivelarsi più effimera di quanto non si pensi, e quindi forse sono un po' troppo maligno, Maroni vuole tenersi la segreteria perché non è sicuro di potersi tenere a lungo il governatorato della Lombardia. Perché cosa potrebbe succedere secondo te? Ma sai, dipenderà anche molto da quello che succederà in questi giorni per quanto riguarda le cariche istituzionali, perché se credo il centrodestra avesse l'impressione che una parte della Lega appoggia candidati non del PDL, le ripercussioni a livello locale credo sarebbero immediate. Adesso tra l'altro bisognerà vedere per esempio il Movimento 5 Stelle, se vogliamo estorcerti un po' di doti preveggenti, Massimo Franco. Adesso alle 16.30, no? Si voterà per il Senato tra Schifani e Grasso. Tu che cosa prevedi per esempio che farà il Movimento 5 Stelle? Dunque, io sono un pessimo preveggente, no, non mi sembra. Ma comunque sia, io ho l'impressione che se il Movimento 5 Stelle resterà sulle posizioni distaccate che ha ostentato in queste prime fasi, e lo scontro tra Schifani e Grasso potrebbe diventare veramente all'ultimo voto. Se i grillini appoggiassero invece Grasso, credo che verrebbe eletto grasso con molta facilità. Invece, per quanto riguarda la Boldrini, è possibile che, invocato da più parti, lo Spirito Santo abbia aleggiato anche sul Parlamento, secondo te, Massimo? Ma guarda, il Parlamento è un'istituzione laica e deve restare un'istituzione laica. Basterebbe un po' di senso di responsabilità più che lo Spirito Santo. Se vogliamo indicare il senso di responsabilità come Spirito Santo, beh, speriamo che aleggi un po', perché per adesso mi pare che invece abbia aleggiato il diavolo dell'impotenza, per cui mi pare che finora abbiano dato una pessima prova di sé i partiti, e quindi non credo che diano grandi premesse per quanto riguarda il futuro della legislatura. E a questo proposito, Massimo, ti faccio una domanda un po' ingenua, come a volte sono, per carità. E secondo te questa voglia di strappare, dunque, se io do una caricatura, dai a me, poi queste strategie, no, da sottobosco, significano che vogliono davvero muoversi nell'interesse del paese, o che alla fine non si vogliono arrendere, lo vogliono tenere ben stretti nelle mani, potere, gli scranni? Che pensi tu? Ma guarda, secondo me è ancora peggio. Nel senso che intanto la tua domanda non è affatto ingenua, secondo me è una domanda molto molto pertinente e sottile, è quella che si fanno tantissime persone, compreso io. Io ho l'impressione che in realtà loro stiano continuando la campagna elettorale, cioè è come se questi partiti per primi capissero che il risultato elettorale porterà a nuove elezioni entro non molto tempo, e quindi per paradosso accentuino gli aspetti demagogici e anche gli aspetti egoistici del loro comportamento. E poi vedremo questo che cosa porterà in termini di reazione degli elettori. Però ecco, la cosa è questa, che la campagna elettorale non è finita, sta continuando. Effettivamente, 800 24 00 24. Sentirei, prima della viabilità, cominciamo a sentire gli ascoltatori al numero verde. Angelo della provincia di Bergamo. Angelo? Pronto, Angelo? Sta facendo le cose sue, Angelo. Evidentemente si è distratto per qualche istante. Pronto? Riprendiamo tra poco Angelo dalla provincia di Bergamo, probabilmente stava comprando il giornale. Massimo Franco, invece di Renzi, col suo faccione sull'Espresso che dice "io sono pronto", effettivamente ha fatto un coming out, diciamo, in questi giorni. No, aspettava solo il momento giusto, e il momento giusto sta per arrivare, effettivamente. Era solo lì in attesa, ma sapevamo tutti, no, che era... presto sarebbe stato il suo momento. Beh, lui scommette sulla fine della legislatura in tempi brevi e si pone come alternativa a Bersani come possibile premier. Non so se sia una scelta tempestiva o no, ma certamente fa capire che anche la vicenda delle primarie, per il risultato che ha ottenuto il PD, ha lasciato aperto il tema. In realtà, se Bersani avesse vinto, la questione era chiusa almeno per un po' di tempo. In questo modo invece si fa capire che è aperta anche la questione del futuro del PD, perché non c'è solo la leadership di Bersani, ce n'è già un'alternativa. Quindi dobbiamo aspettarci tensioni forti dentro la sinistra. Sentiamo però il numero verde, dicevamo, 800 24 00 24. Angelo, dalla provincia di Bergamo, ti abbiamo ripescato, Angelo. Buona giornata. Buona giornata. Buona Pasqua. Poi in anticipo, grazie comunque, ricambio. Dunque, per il Vaticano ero convintissimo che andasse questo Papa, proprio un Papa argentino, non lo conoscevo. Tu avevi già previsto, Angelo? Parlare. Pronto? Tu, Angelo, l'avevi già previsto? Sì, sì. Ce lo potevi dire, dico, in due giorni ha fatto un Papa, tutti dicevano un Papa italiano, e invece ha detto mettiamo qualcuno per fare un po' di pulizia, perché mi sembrava di vedere il film... Angeli e demoni, e mi sembra anche la politica, angeli e demoni, cioè stanno facendo un teatrino, ma quella gente lì non sanno che li abbiamo votati noi, sono lì perché noi li abbiamo votati, non sono lì come dice quel signore che l'ho votato anch'io, non siamo qua a vendere noccioline, ma sa cosa costa anch'io le noccioline? Costano 35 euro al chilo le noccioline. E questo è importante, sapere le noccioline. Angelo, però, ti chiedo, tu cosa hai votato, se hai voglia di dirlo? PD. E... Sì, ho votato PD, ho votato a sinistra. PD e sostieni Bersani o già prevedi questo passaggio, ti aspetti no, io, questo passaggio di testimone? Io ho votato PD, per me Bersani e Renzi non è che abbia guardato al nuovo o al vecchio. Ho votato PD il per partito. Una scelta ho capito. Che mi sembrava quella più corretta. Chiarissimo, Angelo, ti ringrazio. Dario dalla provincia di Milano, sempre all'800 24 00 24. Pronto? Dario, sì, ci siamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Anch'io volevo fare un paio di osservazioni sulla situazione politica attuale. Io noto che i partiti tradizionali, PD e PDL, sono in una profondissima crisi e credo anche che questo governo non durerà molto. Credo che torneremo a votare nel giro probabilmente di un anno e da quel momento lì probabilmente ne vedremo delle belle, perché siamo in una fase di transizione, ci sono movimenti, partiti che stanno emergendo. Il Movimento 5 Stelle probabilmente è soltanto il primo, ce ne saranno altri, sono convinto che ce ne saranno altri, ci sarà una rivoluzione, anche se una rivoluzione pacifica, all'interno della politica italiana. Questo per diversi motivi, ma penso che il motivo principale è che oggi non c'è nessuno che sia in grado di dare una visione della società. Nel mondo politico attuale c'è una grossa miopia, cioè si guarda il giorno dopo, probabilmente anche per effetto della crisi, però sostanzialmente non c'è nessuno che è capace di dare un disegno, una visione di quello che vorrebbe che questo paese fosse fra 3 anni, 5 anni, per non dire 10 anni. C'è molta mancanza di prospettiva e sono convinto e contento del fatto che ci sia una mutazione, probabilmente proprio una mutazione, come dire, strutturale, di DNA della politica italiana. Questa era la mia osservazione. Grazie Dario. Che ne pensi, Massimo Franco? Per esempio, nel giro di un anno, dice Dario, molti lo pensano, che la legislatura potrà essere breve. Tu sei d'accordo? Senti che c'è fragilità? Beh sì, sono abbastanza d'accordo. Mi sembra un'osservazione molto lucida quella dell'ascoltatore. Credo che in realtà se vale tanto, questa legislatura dura un anno, ma non è da escludersi che si vada ad elezioni anche prima, viste le cose come stanno andando. Secondo, è anche vero che per quanto si possa criticare, perché ha un'agenda, soprattutto di politica internazionale, che fa un po' paura, tipo il referendum contro l'euro, però indubbiamente il Movimento 5 Stelle ha una funzione, che è quella di mettere tutti i partiti di fronte alle loro responsabilità e anche di far capire che non è che il fatto di mantenere furbescamente la legge elettorale attuale senza aver fatto nulla in termini di riforme li abbia salvati da un giudizio degli elettori che è stato durissimo e che oggi purtroppo noi ereditiamo con un paese che è in bilico, ma che senz'altro non di certo attribuito al Movimento 5 Stelle, ma ai partiti che hanno permesso l'esplosione elettorale di questo movimento. Del fatto che ieri Mario Monti si fosse, insomma, abbastanza palesemente candidato alla presidenza del Senato, poi insomma Napolitano gli ha fatto capire, guarda, meglio di non farti da parte. Che hai pensato di questa sua aspirazione? Ma mi è parso un po' sconcertante, onestamente. Sconcertante perché Monti resta a Palazzo Chigi per la fragilità che noi siamo tornati ad avere a livello internazionale. Quindi è considerato uno degli ultimi ancoraggi insieme a Napolitano per non perdere credibilità in Europa quando ci sono dei vertici che sono fondamentali per la tenuta anche dell'Italia. Il fatto che per motivi di politica interna lui potesse spostarsi al Senato, onestamente mi è sembrata un'operazione un po' acrobatica. Ecco. Acrobatica anche perché chi avrebbe fatto il Presidente del Consiglio? Se oggi facevano Monti Presidente del Senato, chi era il Presidente del Consiglio? Dunque, l'ipotesi era quella di affidare la Presidenza del Consiglio ad interim ad un vice ministro del Consiglio, vice primo ministro del Consiglio, che però non era ancora stato nominato. Tendenzialmente era possibile, ma credo sarebbe stato un pasticcio enorme anche in termini di immagine. Credo che sarebbe aumentata l'incomprensibilità italiana agli occhi dell'Europa, ma forse anche dell'opinione pubblica. E anche un esegeta come Massimo Franco si sarebbe posto parecchi interrogativi. Ma sentiamo adesso sempre il numero verde 800 24 00 24, Bruno da Pescara. Buonasera Roberta. Buonasera Bruno. Sì, sono Bruno. Certo. Ti ringrazio Radio 24 per darmi pure a noi semplici cittadini qualche volta di porre delle domande. Spero che la mia abbia un minimo di interesse anche per l'interlocutore che ha oggi in studio. Speriamo, sì. Nella situazione... Sì? Bruno. Come? Ci lascia così in sospeso, questa suspense, la domanda che poteva interessarci... È successo qualcosa a Bruno a Pescara? Ci riproviamo. Sì, Bruno, sì, però rimani immobile, per non respirare. Sì, prego. Sì, mi sente, Roberto? Sì, ti sento, Bruno. Vai. Dunque, Allora, dicevo, sono felice perché è stata eletta la signora Boldrini alla Camera. Anch'io, sì. Sono un elettore del PD. Volevo chiedere, nella situazione di evidente debolezza della politica della nostra Repubblica italiana, vedi, non governo, politici che vengono arrestati, disoccupazione, migliaia di famiglie ridotte sul lastrico, vorrei chiederle e chiedere al suo interlocutore, che so essere un giornalista abbastanza preparato. Molto preparato. C'è il rischio abbastanza. Che in Italia... Sì, pronto? Sì, sì, è chiaro. Pronto? C'è il rischio che in Italia... Vai. Vai, c'è il rischio che in Italia possa accadere qualcosa, non voglio arrivare, ma abbiamo dei ricordi brutti sulla nostra Repubblica, in questo c'è il rischio che possa accadere, io mi auguro di no. Scusa, in poche parole, Bruno, in poche parole, attentati. Ecco, terrorismo quindi. Grazie Bruno, cosa dici Massimo Franco? Cioè, c'è da augurarsi di no, anche se è vero che nei momenti di vuoto di potere, di vuoto istituzionale, l'inserimento di provocatori è sempre qualche cosa che non va esclusa a priori. Ho l'impressione che i tempi però siano un po' cambiati, quindi almeno da questo punto di vista c'è da sperare di no, anche perché ultimamente mi pare che gli aspetti bellici si esprimano più in termini economici che non in termini, almeno in Europa, di interventi militari. Se ci pensiamo, quella che è esistita negli ultimi 3-4 anni a livello europeo, a livello occidentale, è stata una sorta di guerra economica, che ha avuto, anche se in modo a volte simbolico, morti e feriti. Quindi credo che il rischio da qui all'elezione del capo dello Stato, alla formazione del nuovo governo, sia piuttosto quella di un collasso dell'Italia, magari provocato dal fatto che c'è grande incertezza. Prima di onestamente mi auguro non ci sia altro, ecco. Certo, poi di rischi adesso ne riparliamo. Prima di sentire le decine e decine di ascoltatrici e ascoltatori che stanno chiamando al centralino con Rosa, e c'è in assistenza in regia il nostro Giorgio De Luca, e prima anche di collegarci con un altro pianeta, cosa che avviene solo a livello universale qui in questo programma, volevo chiederti ancora, Massimo Franco, a proposito di rischi, c'è in questi giorni, questa settimana, Nicholas Farrell, che è biografo inglese del duce di Mussolini, ha detto: la vittoria dell'apparentemente innocuo e ammirato antipolitico Beppe Grillo ha inquietanti parallelismi con la salita al potere del fascista Benito Mussolini. Ti fa ridere questa Secondo cosa? Me questi storici non fanno bene il loro mestiere quando applicano schemi del passato e contesti storici del passato a fenomeni attuali. D'altronde, se ci pensiamo, fu lo stesso accostamento che fecero altri storici tra Berlusconi e Mussolini. Tante volte, sì. In realtà sono abbastanza impropri, perché il contesto è diverso, e tra l'altro non possiamo dimenticare che oggi c'è un'Europa alla quale siamo saldissimamente attaccati, e soprattutto, scusatemi, ma mi pare che Grillo sia soprattutto un demagogo, senz'altro un comico, che sta avendo successo, ma con una base che a mio avviso non ha le capacità che aveva un movimento fascista. Ma ripeto, la cosa soprattutto che mi sorprende in modo negativo da parte di Farrell è il fatto che lui faccia questo paragone improprio con contesti storici totalmente incomparabili. Allora, adesso siamo riusciti con il satellitare a creare questo collegamento con un altro pianeta, poi le vostre telefonate sempre all'800 24 00 24. Riflessioni da Marte. Sin quassù da Marte, scrutando il globo terracqueo col telescopio, come sempre, è stato subito chiaro che era in corso una settimana particolarmente concitata, della quale il protagonista assoluto, diciamolo, è stato lui, il Comignolo. Un pianeta intero, il pianeta Terra, a fissare per 2 giorni un comignolo, per vederlo sbuffare, con l'attesa di vederne fuoriuscire clorato di potassio, lattosio e pece greca, insomma, gli elementi che rendono candida la fumata. E così è stato. Fratelli e sorelle, buonasera. Chi l'avrebbe detto che un buonasera avrebbe potuto scatenare tanto entusiasmo? Che invidia proveranno le storiche annunciatrici TV? Dal comignolo collegato al conclave del Parlamento italico, invece, sino a poco fa sembrava sbuffare solo roba nera. Per fortuna, imprevedibilmente, invece, pure qui su Marte, meno di un'ora fa è arrivata una fumata piena di lattosio e pece greca. Dovete sapere, però, che vi è un esclusivo retroscena, che probabilmente disconosce anche il nostro Massimo Franco. Affamati di cariche e di posti vacanti, i politici italici, alcuni fra di essi, hanno persino pensato che se si arrivava a un equo accordo fra le parti, se tu dai il Senato a me, poi io do la Camera a te, l'altro dà il Quirinale a quello, hanno pensato, prima della fumata bianca in Piazza San Pietro, che anche il ruolo di Papa fosse, per così dire, scalabile. Qualcuno già si vedeva sul trono con la papalina e la stola di Ermellino e qualche immagine fanta papale era in effetti già girata sul web. Ma dopo che è stato fatto il Papa, e fatto un Papa hanno dovuto convenire non se ne fa un altro, avendo saputo i politici italici in cerca di cariche che il pontefice si era pagato la stanza d'albergo e aveva immediatamente rifiutato l'auto blu, hanno pensato che, no, non era proprio una cosa per loro. Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, go go Joe, check like a Giovanni, hello che si dice, get a happy in the fits when you mambo. Italiano. E ritorniamo subito con i piedi per terra sul nostro pianeta, sempre al numero verde 800 24 00 24. C'è Pino da Caserta. Rino, pardon, ho visto una gambetta in meno. Rino da Caserta. Prego. Salve. Io ero fiducioso che Grillo potesse portare una ventata, anche perché comunque ha avuto un'affermazione elettorale. Beh. E quindi pensavo che lui, una volta entrato in Parlamento, potesse mettere i partiti davanti alle responsabilità che sono evidenti, quindi parlare di legge elettorale, conflitto di interessi e quant'altro, insomma le cose, finanziamento pubblico ai partiti. Vedo però un attimo di disfattismo da parte di Grillo e non vorrei che prima delle elezioni tutti quanti eravamo convinti di toglierci dai piedi un pagliaccio e poi alla fine ce ne ritroviamo un altro. Sono solo adesso profondamente deluso di come si sta avvitando tutta la questione politica. Cioè, perché tu ti aspettavi, Rino, che arrivasse a un accordo con, per esempio, il PD? Io mi aspettavo che Grillo dicesse: questi sono i miei punti preliminari, importanti, fondamentali. Ok, su questi convergiamo, c'è convergenza. Tanto comunque ha ragione Massimo Franco nel dire che al massimo potrà durare un anno, ma con il rotto della cuffia un anno e mezzo, non più di tanto questa legislatura. Quindi è evidente che se Grillo perde questa occasione, non lo so, come dicono a Napoli, c'è un motto abbastanza volgare. Sentiamolo, però, si può dire radiofonicamente. Razionalmente conosciuto. Proviamo, dicono, abbiamo messo la prucchiacca a mani e creature. E questo è successo con i grillini, cioè perché, come dicevo, anche intellettuale del Novecento, non bisogna essere solo onesti in politica, ma anche capaci. Quindi è evidente che il fatto che tutti questi qua si muovono in gruppo con un gregge come un gregge di pecorelle, attendendo la telefonata di Grillo, di Casaleggio, per me questa cosa è molto deprimente. Anche il fatto che lui abbia detto in quelle prime riunioni: chi non fa quello che dico io lo prendo a calci nel sedere, insomma. Non lo so, questi signori che sono stati eletti in Parlamento, legittimamente, per carità, fino a che punto possono determinare un interesse collettivo. Grazie Rino, sei stato chiarissimo. Massimo Franco, Grillo effettivamente ha detto: voi sottoponeteci le vostre proposte, poi noi le votiamo di volta in volta. Certo, è difficile così, no? Fare un governo, pensare di andare avanti più di tot. Ma io sono sicuro che se queste persone ricevessero delle proposte, Grillo direbbe più uno, e poi più uno, e poi più uno, perché la mia sensazione è che Grillo in realtà sia il primo spaventato dal risultato che ha ottenuto, perché non sa bene che cosa farci. L'unica sua vera agenda è quella dell'azzeramento delle istituzioni italiane, ma in realtà dietro questa sua spinta, che in realtà gli ha portato tanti voti perché c'è tanta delusione, tanta frustrazione e tanta rabbia, non c'è un programma politico, ci sono una serie, una cozzaglia di proposte contraddittorie e impossibili da realizzare, che naturalmente scopriranno nel momento in cui lui sarà messo di fronte ad una responsabilità di governo che è un movimento da quel punto di vista inconsistente. Quindi purtroppo la sensazione è che, nonostante la funzione di rottura che il suo movimento ha, per paradosso Grillo è uno dei problemi di questo movimento, perché è un leader senza nessuna esperienza e senza nessuna credibilità, soprattutto internazionale. Ma noi ce lo immaginiamo. Anche cosa se hai sentito dire il sostegno dell'ambasciatore americano in questi giorni, Thorne, che ha detto: ragazzi, pare, seguite il modello. Questa è una cosa sulla quale si possono dire un paio di parole, perché ho la sensazione che gli Stati Uniti siano preoccupati dalla situazione italiana e non sappiano bene come prenderla, perché in realtà gli Stati Uniti all'inizio avevano puntato tutto su Monti. Quando Monti ha perso le elezioni, ho la sensazione che ci sia una certa, forse tentazione, di cavalcare il movimento di Grillo come fosse una delle primavere arabe, no? Quelle che abbattono i vecchi regimi, e forse il tentativo anche di usare o di vedere nel movimento di Grillo una sorta di mani pulite del 2013. Secondo me sono suggestioni un po' pericolose che nascono da analisi superficiali. Francesca da Bologna, volevi parlare, detto, del Papa, dell'immagine di lui che bacia i piedi di un bambino con le DS. Dicevi che era una contraddizione, esatto. Perché? Perché vabbè, è vero che l'AIDS è una malattia appunto sessualmente trasmissibile, e con alcuni contraccettivi, appunto come l'uso del profilattico, questo non avverrebbe. E l'uso del contraccettivo, cioè del profilattico, dalla Chiesa è totalmente bandito, perché viene visto come un peccato. Io credo che questa foto sia appunto cioè uno simbolo proprio. Che significa una contraddizione in termini, appunto, una come il ghiaccio bollente, molto forte. Queste cose. Massimo, ti ringrazio, Francesca. Effettivamente è un'osservazione, mi pare, non peregrina, Massimo. Massimo. Credo di sì, credo sia un'osservazione giusta, anche se onestamente io ho apprezzato moltissimo quel gesto, perché credo che andasse al di là della malattia dell'AIDS, quindi andava nei confronti di un bambino che ha una malattia gravissima. Quindi credo che su questo la Chiesa, con questo Papa, abbia compiuto un gesto da apprezzare. Naturalmente vedremo poi, perché ancora non sappiamo, se da altri punti di vista ci saranno passi avanti, perché in effetti in continenti come l'Africa il problema dei contraccettivi è un problema molto serio quando hai di fronte una malattia come l'AIDS, con milioni di persone che si ammalano. Ma Massimo, proprio perché hai scritto questo libro, ma da tempo dicevamo segui le questioni vaticane, allora da una parte Papa Francesco è apparso subito già dal suo nome, hanno cominciato questo, l'aggettivo che più gli si attribuisce nel giro di 3 giorni è rivoluzionario, no? Anche perché non si è vestito con certi orpelli tipici dell'abbigliamento papale, prende l'autobus, si cucina da solo, quindi un'immagine proprio francescana nel senso evocativo del termine. Dall'altra, appunto, sai che sono venute fuori, lo sa benissimo, le accuse, specie da questo scrittore, giornalista argentino, intellettuale Verbischi, che dicono un'autorità dei diritti umani in Argentina, che ha parlato, lui dice, di addirittura documenti e testimoni che comprovano che collaborò con i dittatori della terribile dittatura argentina dal 1976 al 1983, no? La giunta militare, decine di migliaia di desaparecidos, torture in mani. Ecco, quindi le ombre di questo tipo, e anche, ti devo dire, per esempio, l'Huffington Post, che sappiamo, quotidiano online tra i più seguiti al mondo, ha subito aperto immediatamente dopo l'elezione, dicendo che è un'impostazione molto conservatrice, che anche qui ci sono le ombre della dittatura argentina, e dice poi che mentre Obama lo considera paladino per i diritti dei poveri, dice invece paladino nella crociata contro il diritto alle nozze gay, dicendo che i matrimoni gay sono un attacco devastante ai piani di Dio, un segno del diavolo. Ecco, tutto questo di rivoluzionario forse non ha moltissimo. Poi non ti dico cosa ha detto delle donne, lo diciamo dopo, perché non ho capito se una bufala o no, la frase è terribile sulle donne. No, consolami, dunque, confortami, ti prego. Sì. Intanto mettiamoci in testa una cosa: ritenere che un papa sia rivoluzionario anche sui valori fondanti della Chiesa è un abbaglio che si prende sempre, si prese anche quando fu fatto Giovanni Paolo II. Cioè, la Chiesa può essere apertissima sul piano sociale, questo è un papa frugale, non è un papa della Chiesa dei poveri, è un papa povero. Ieri, quando ha visto l'appartamento di Benedetto XVI, non gli è piaciuto, ha detto che era troppo grande, ci possono stare un sacco di persone e quindi non è neanche da escludere, lui ne sceglie uno più piccolo, questo deve essere chiaro. Ma pensare che il Papa diventi un paladino delle unioni omosessuali o delle adozioni dei bambini da parte di coppie gay o dell'aborto, ma questo vuol dire non conoscere la Chiesa. La Chiesa ritiene che questi siano i valori che fondano la sua presenza nel mondo, per cui su questo credo ci siano sempre molte confusioni. Però Massimo, scusi se ti interrompo. Obama... Scusa, prego. Ti interrompo. Ma cosa c'entra citare sempre il diavolo quando si parla d'amore? Secondo me non c'entra. Potrebbe dire sono contrario ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma dire che sono un segno del diavolo, io direi che si può anche non essere rivoluzionari. No, ma su questo sono d'accordo. Su questo sono d'accordo. Il problema, vedi, io credo che il problema del linguaggio per la Chiesa sia molto più importante di quanto la Chiesa non ritenga. Perché mentre prima la Chiesa, quando diceva le cose, le diceva convinta di avere la verità e che quindi le cose fossero chiare per sé, oggi, secondo me, la Chiesa deve capire che quella che per lei è l'evidenza va argomentata e fatta accettare, sia da chi è cattolico sia da chi non lo è. Perché non basta più affermare una cosa come se fosse la verità riconosciuta da tutti, perché si è visto che l'opinione pubblica, soprattutto occidentale, non l'accetta, e questa credo sarà una grande sfida quasi semantica infatti. La Chiesa dovrà affrontare. Senti Massimo, quindi ti dicevo, tu che sei addentro, questa frase che è girata sui siti che mi ha molto allarmata, se non sconcertata, detta da Papa Francesco: le donne sono inadatte ai compiti rilevanti, dice, sono naturalmente inadatte per compiti politici, l'ordine naturale e i fatti ci insegnano che l'uomo è un uomo politico per eccellenza. Le scritture ci mostrano che le donne da sempre supportano il pensare e il creare dell'uomo, ma niente più di questo. Se Cardinale Martini, che tu citi nel tuo libro, aveva detto che la Chiesa è indietro di 200 anni, qua sarebbe di 1200, ma voglio pensare che sia di un integralista islamico questa frase, no? Potrebbe essere una bufala. Se ha detto queste cose sono deludenti e mi sembra un po' strano. Era su vari siti, poi io non posso dire. Sì. Guarda, onestamente io penso che da quello che si capisce, un altro tema col quale invece la Chiesa dovrà fare i conti e in modo molto netto è il ruolo delle donne. Certo. Io non credo che si arriverà ai sacerdoti donna, questo no. Ma credo che sia fondamentale per la Chiesa dare un maggiore ruolo alle donne, perché altrimenti perdono, nel mondo occidentale ma non solo, è un ruolo talmente cresciuto, la Chiesa è talmente in arretrato rispetto a questo, che credo se non sono dei suicidi se ne rendono conto anche loro, per cui io questi giudizi onestamente non li avevo sentiti, non li ho letti sui siti, ma... devo credere che siano veri, non lo so. Non lo so. Ecco, se sono veri spero che siano rivisti. E fra l'altro, ieri, non so se hai sentito, il governatore o presidente della regione Sicilia, Rosario Crocetta, alla 7, ha detto mi piacerebbe in futuro un Papa donna. È stato subito scomunicato dal suo confessore. Potrei essere scomunicata anch'io, non ho un confessore personale, ma non si sa. Ma diciamo che la penso, ha un desiderio, un auspicio, più in là chissà che possa succedere. Però Massimo, ritornando al tuo libro, al di là di queste cose che però sono fondamentali, non sono cose di secondo piano, le donne, l'apertura insomma verso una modernità che continua a incalzare, per quanto riguarda la crisi dell'Impero Vaticano, il titolo del tuo libro, riuscirà questo Papa secondo te a risollevare dagli scandali, dagli intrighi, dalla perdita di credibilità internazionale, globale, come dici tu? No? Ma guarda, io devo dire una cosa. Il trauma della rinuncia di Benedetto XVI, della sua abdicazione, passo indietro, chiamiamola come ci pare, è stato tale che ha costretto il conclave a votare un Papa come questo, che è un Papa che rompe l'idea di continuità. Quindi in qualche modo le premesse ci dovrebbero essere, ma certamente si troverà di fronte ad una Chiesa devastata, perché soprattutto in Italia, ma non solo, quando io parlo di Chiesa nuovo imputato globale, c'è un motivo, cioè la Chiesa in questi anni è come se fosse stata spinta dalla parte opposta del confessionale, cioè prima era la Chiesa che confessava e assolveva i peccati altrui, oggi è una Chiesa che è sotto accusa, è lei che deve dimostrare di essere innocente, lo vediamo sulla pedofilia, lo vediamo sulle questioni dello IOR, lo vediamo per i rapporti col centrodestra in Italia, quindi c'è stato un rovesciamento totale delle posizioni. Ora, questo Papa è la risposta alta, credo, a questa sfida, ma è tutta da giocare e da vincere, non è affatto scontato che la vinca. Certo, sia perché probabilmente è più grande anche di lui, sia perché bisogna vedere appunto quale sarà il suo atteggiamento, la sua direzione. Forse lo stanno un po' subito facendo santo subito, non lo so se questa... Questo è tipico, quando arriva il Papa c'è un misto di conformismo, di entusiasmo e a volte magari anche di servilismo, soprattutto in alcuni settori della curia, che tendono ad appropriarsi, ad esaltarlo. Bisognerà vedere, una volta che si è depositata questa polvere dorata, questa emozione, che cosa resterà, perché in realtà questo è un Papa che a mio avviso picchierà duramente sulle incrostazioni della curia, su come la Chiesa ha funzionato in questi anni. E quindi le resistenze e le reazioni saranno dure e forse anche violente. Luca da Carrara. Pronto? Luca, ci sei. Buonasera. Io volevo fare una piccola riflessione, che è questa. Sì. Io intanto sono un non elettore, come va di moda adesso dirlo, nel senso che è dallo scorso secolo che non voto, vorrei premetterlo. Così vecchio sei, vabbè. Sì, sì, ho 50 anni, ma... Non voti più. Volevo solo dire questo, sì, che mi piacerebbe, un'ipotesi, che Bersani, il PD, votasse ora, poi il presidente del Senato, la Aureliana del Movimento 5 Stelle. Cambierebbero tante cose nel mondo, probabilmente. Prima leveremo i politici, non la politica, i politici da questa nostra, questo nostro modo di vivere, modo di fare, è tutto, lo sappiamo com'è. E poi credo che avere due presidenti, delle donne, delle due assemblee, sarebbe un bel segnale di cambiamento. Luca, scusami, resta. Io apprezzo moltissimo quello che hai detto, soprattutto l'ultima frase, però Aureliana è un uomo, anche se finisce. Ah, scusami, allora ho sbagliato. Sì. Sono ignorante, allora. Però prendiamolo... La mia ignoranza. La mia ignoranza è... Però prendiamo le tue buone intenzioni, quelle mi bastano, Luca. Ti ringrazio. Adesso però noi, per capire qualcosa di più di cosa ci aspetta, come saranno queste consultazioni, perché poi una volta che dovesse essere eletto anche il Presidente del Senato, bisognerà capire chi diventerà Presidente del Consiglio. Allora abbiamo il nostro appuntamento con Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale. Giuseppe, quindi, hai sentito la Boldrini, Laura Boldrini, io ne sono contenta, spero anche tu. Insomma, un passo è stato fatto, adesso bisogna vedere nel pomeriggio cosa succede per il Senato. Questo pomeriggio un altro, perché tanto è un ballottaggio. Perché Alfano ha già detto, con Grasso si va verso le elezioni, quindi hanno già detto il PDL, guardate che se si vota Grasso noi poi vogliamo tornare al voto. Ma insomma, poi ci saranno queste consultazioni a un certo punto. Sì, si apriranno, adesso servivano un po' di ingredienti, da un lato i presidenti delle Camere, dall'altro si dovranno formare i gruppi parlamentari e a quel punto Napolitano può chiamare al Quirinale queste persone. Le consultazioni, in realtà la prima cosa da dire è che la Costituzione non ne parla, non c'è scritto nulla delle consultazioni, c'è solo scritto che il Presidente della Repubblica nomina Presidente del Consiglio e su sua proposta i ministri, però siccome nella Costituzione c'è scritto che il governo deve avere la fiducia nelle Camere, il compito difficile, arduo, che adesso Napolitano ha è quello di trovare o cercare di trovare un governo che possa avere la fiducia delle Camere e possa anche mantenerla, perché al di là del voto, di tutte le speculazioni che si sono fatte, si può uscire al Senato perché altrimenti l'astensione vale come voto contrario, eccetera, eccetera, la fiducia va mantenuta, cioè ci vuole una maggioranza anche al Senato che non voti contro i provvedimenti del governo, sia ovviamente quando pone la questione di fiducia, ma sia in generale non voti una sfiducia. Il governo può andare avanti anche quando viene un po' bocciata qualche sua proposta, ma ovviamente non dura molto. Quindi le consultazioni cosa sono? Sono un giro d'orizzonte che il Presidente della Repubblica deve fare, chiamando una serie di persone che sono, e di personalità e cariche che sono quelle essenziali, si parla delle diciamo quelli che non manca mai, e sono i presidenti delle Camere, e da stasera dovremmo averli, e poi i presidenti dei gruppi parlamentari, accompagnati a volte, Grillo l'ha già annunciato, dai segretari o leader dei partiti o delle formazioni politiche che stanno in Parlamento, perché questi sono i soggetti che possono dire sì, voterò o non voterò la fiducia. E poi ci sono a volte altre personalità, per esempio soprattutto gli ex presidenti della Repubblica, che avendo fatto in passato lo stesso mestiere, avendo risolto altre crisi, possono dare dei suggerimenti, forse ormai il mondo è cambiato, comunque qualche suggerimento al Presidente della Repubblica. Chiuse queste consultazioni, a seconda di come sono andate, il Presidente della Repubblica potrà dare un incarico più o meno pieno, o a volte, è capitato, forse non sarà questo il caso, dare invece un mandato esplorativo, nel senso dire a una persona continua tu il mio lavoro, poi torna a riferirmi, io intanto mi riposo un po'. Grazie caro Giuseppe Busia, grazie, al prossimo sabato. Adesso sempre al numero verde 800 24 00 24 c'è Luca da Lucca. Buongiorno. Gioco di parole. Buongiorno a te Luca. Buongiorno. Io volevo... Ma hai detto signora Luca? Sì. Non mi dire signorina? Sì. No. Non mi dire né signora né signorina, mi viene l'uveite immediatamente. Chiamami Roberto. Grazie. Prego. Sì. Voglio dire, io ho votato PD queste elezioni, no? Però sono rimasto molto deluso. Ma non molto deluso dal risultato elettorale e dall'approccio, perché secondo me Bersani appena visto, perché poi sapevano, perché quando parlano di che i sondaggi erano sbagliati, non è vero, perché i sondaggi loro hanno smesso di fare informazione una settimana, due settimane prima del voto, ma i sondaggi erano sott'occhio dei politici. Comunque, e comunque sia, Bersani ha sbagliato secondo me proprio l'approccio, perché lui la prima cosa che ha pensato, la sensazione che mi ha dato a me, va bene, ora c'è questo problema, si è fatto fuori Renzi, c'è questo problema, Movimento 5 Stelle, finanziamento, che ci rompe il giocattolo letto, allora lo sa che si fa? Gli si mette in mano 8 punti su cui loro non possono essere mai d'accordo. Conflitto di interessi non è conflitto di interessi come lo voglio io, che sono di sinistra. Allora, finanziamento pubblico è vero che non va eliminato, ma intanto levati i soldi e poi fai la legge. Nel senso, tutte quelle cose lì non le ha fatte, non le ha messe proprio spalle al muro. E quindi, quindi ponendoli davanti a lui, ha detto, ora pongo davanti all'attenzione questi 8 punti. Loro non ci stanno e passano male di fronte all'elettorato. Luca, sei stato chiarissimo. Perdonami, ma mi fanno il segno che tra poco si apre la botola sotto la sedia. A Massimo Franco, volevo chiederti, visto che ci sono stati tanti interventi sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, sulla questione dei Marò che non tornano in India, sai, questa, non so se dire prova di forza del governo italiano. Devo dire che la gran parte, il 90% delle ascoltatrici e ascoltatori intervenuti sulla pagina della trasmissione hanno detto che insomma la parola data è quella, che non possiamo fare queste figure, che è una questione anche di prestigio per il nostro paese e direi anche di rapporti internazionali, diplomatici con l'India. Che ne pensi tu? Che siamo stati un po' pasticcioni, perché ho la sensazione che noi ci siamo comportati nei confronti del governo indiano, ma questo fin dall'inizio, come se non capissimo quanto sia cambiato il mondo e che oggi non si può trattare l'India come veniva trattata magari 50 anni fa. L'India è una delle potenze non emergenti ma emerse, è una potenza regionale asiatica fortissima e soprattutto abbiamo secondo me sottovalutato le implicazioni di politica interna dell'India. Noi dobbiamo pensare che lì c'è come di fatto grande regista della politica indiana Sonia Gandhi, che è un'italiana. Tutti gli avversari hanno avuto l'interesse a colpirla, colpendo gli italiani in questa vicenda. Noi questo secondo me l'abbiamo un po' sottovalutato, mentre invece il problema di politica interna che c'è in India è quello che segna il comportamento nei confronti dei nostri Marò. Credo ci sarebbe voluto un po' più di approfondimento in termini proprio di analisi della situazione indiana. Stiamo a vedere, perché è veramente una questione molto delicata. Vedo una ricerca canadese, per uscire completamente dagli argomenti, per dire quante persone, quanti cervelli lavorano su altre cose mentre noi discutiamo di queste faccende. Una ricerca canadese che dice il sesso nello spazio può essere letale, colpa dell'assenza di gravità. Quindi se vi venisse in mente in orbita di fare cose strane, Massimo Franco, sei avvisato anche tu. La crisi dell'Impero Vaticano. Come ci salutiamo, Massimo, in questi 30 secondi? Ci salutiamo dicendo che c'è da sperare soltanto l'Impero Vaticano in qualche modo si risollevi, anche per un motivo, perché la sua crisi è il riflesso e in qualche modo l'esagerazione della crisi dell'Occidente. È vero, almeno quindi quello. In qualche modo sono legati in modo parallelo. Grazie a Massimo Franco e a Roberto Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.